degli scheletri, il ballo della fame, la pelle si fa secca, diventa verde rame, poi scompare del tutto e si fa liquame, scricchiola e si sgretola tutto quello same, fa un rumore secco, un po' tipo il pentolame, ossa senza grasso, certame di ferrame. Tutto intorno a me vedo un grande affaccendarsi di scheletri svuotati che cercano la catarsi, cumuli di ossa che vogliono spogliarsi di ogni umanità per poter reinventarsi. In vitelli d'oro vogliono trasformarsi, ma si sentono fuori luogo e coi ventri riarsi. Eri la mia piccola stella, ma per diventare fotomodella sei sfuggita dalla padella, ormai sei più brace che stella gazzella. Ti senti bella ma resti zitella, ti senti bella ma resti zitella. Ragazzini minorenni che si affamano con gioia, ballan su passerelle perché sono in paranoia, si fanno mille foto in video, tirano le cuoia, per riuscire a piacere si riducono a una stuoia. La strada del successo è larga mezza feritoia, è loro per passarci se stessi si fanno boia. Eri la mia piccola stella, ma per diventare fotomodella sei sfuggita dalla padella, ormai sei più brace che stella gazzella. Ti senti bella ma resti zitella, ti senti bella ma resti zitella.